Caterina morta il 1680. 22 novembre. Ho una gran voglia di cancellare ciò che scrissi ieri, ma non lo faccio, perché si sappia quanto poca carità abbia e quanto sia pusillanime. Come potei pensare che Dio non mi avrebbe dato la forza? Furono qui di nuovo tutti e due. Gianni sente ripugnanza alla preghiera e lo dimostra in faccia. Ho notato un cambiamento nella bocca di Caterina, qualche volta lei sorride anche. Io dissi, ma dimmi, quando sei morta? Lei, Ornung 1680. Io, dove sei sepolta? Lei, in Kempten. Nota. Kempten è il capoluogo dell'Algiù, nota soprattutto per la Basilica di San Lorenzo e il castello principesco residenziale, costruiti dal celebre architetto dell'epoca barocca, Michele Beer del Vorarlberg. Io, perché la tua anima è qui? Lei, io ho messo discordie. Io, conosci forse la Barbera? Lei, sì, io, dimmi di più. Ma lei era sparita. Gianni deve poterla vedere, perché mentre lei parlava venne molto vicino a lei. 24 novembre. Furono qui tutti e due a lungo, ma non ci fu niente da fare con loro. Sono molto contenta se è qui anche Caterina con Gianni. Allora la cosa non è più così tremenda. 25 novembre. Gianni solo qui. Egli era così violento, che io continuavo a pensare che sarebbe finito col cadere nel mio bagno. Io dissi, hai da dirmi qualche cosa? Allora egli si inferoì e scappò via, tornò di nuovo e incominciò a sospirare paurosamente. Fu una cosa veramente difficile da sopportare. 26 novembre. Di nuovo i due. Io dissi a Caterina, credevo che la tua patrona di cui porti il nome ti avesse liberata, perché ieri non sei venuta. Allora lei disse, Caterina da Siena. E lo disse così in fretta che io quasi dovetti mettermi a ridere. 27 novembre. Non stavo bene, ma non potevo dormire e aspettavo i miei amici. Non vennero, come sempre, quando ho dei dolori. È straordinaria questa riservatezza. 28 novembre. Di nuovo dolori senza spiriti. 29 novembre. Gianni venne solo. Pregare e fare delle domande lo irrita. 30 novembre. Caterina mi stava già aspettando. Quando andai a dormire, recitate con lei le preghiere della sera, dissi, perché sei stata così a lungo senza venire? Lei, io ti ero vicina. Io, perché non ti ho vista? Lei, tu mi hai donato molto. Guarda qui. E indicò la sua bocca, dove tutto quell'orrore era sparito. Non posso descrivere quanta gioia io provai. Io, adesso non devi più soffrire così tanto. Lei, no. Io, dimmi quando ti posso aiutare di più. Lei, quando non pecchi. Io, purtroppo non ne sono ancora capace. Lei mi sussurrò di nuovo qualche cosa all'orecchio che io non riuscii a capire. Forse una parola come unione o comunione. Poi disparve. Non peccare, solo che lo potessi. Qualche volta sono piena di risentimento dentro di me, che ribolle e allora sono tanto falsa che non lo lascio vedere.